Gerasco e 48 uno muore ficcato. Sembrava che non ce n'era uno stazionale, invece mi ha bruciato il baracchino. Così sono come premuto la portata. Sì, sì, come ho premuto la portata e ho cercato di fare. Un modificato te lo fate. No, prima ho accordato, ho messo un accordato e ho provato a zero, però vedete no. E poi invece c'era qualcosa che non andava con quella basetta lì e quando ho toccato dopo l'antenna mi si è attaccata a mano quasi, no? Di quanto stava bruciando. Certo. Mi sono squagliata, hai capito? Allora l'hai squagliata. È positivo, e allora ha lasciato per, ma c'è da qualche parte buttata. Io solo una volta ho visto diventando l'antenna incandescente, rossa proprio, attaccato lineare. Su questo antenino deve essere non sopportava il vatto, si è fatta rossa, ragazzi, rossa, brucenti. No, guarda, se lo fa anche senza lineare. Se lo fate senza lineare, io ho visto la 2001, Gianni Gippone, ti ricordi Gianni Gippone? L'ha spruzzato tutto il CRC dentro, CRC fa contatto, o grasso che gli abbia messo, non lo so, stava parlando, se è iniziato, poi era di notte, io quel fare dietro di vedevo il fumo, che usciva eravamo d'inverno, il calore, usciva il fumo dall'antenna, hai capito? Usciva il fumo dall'antenna. No, io l'ho aperta, però gli ho spruzzato il CRC per contatti, quello marino, ma non mi ha fatto nulla, l'ho pulita tutta quanta bene, e poi l'ho richiusa e gli ho messo anche il silicone tutto attorno per non far entrare l'acqua. E la mia andava sempre bene, l'ho regalata a coso, come si chiama? Ma a Giuseppe Tornado, l'ho regalata per il camper. Ce l'avevo sopra perché non avevo più intenzione di mettere le macchine, invece adesso, visto che c'è un po' di gente, non me la bucherò la macchina, metterò la calavita e me la metto con la base magnetica così. Ma devi prendere quella 328, quando vai tu ai raduni sul continente ne vedi quelle macchine con macchine belle, Mercedes, macchine, e c'hanno 328, anche chi fa le modifiche tipo Nicola Pirata, Pietro del Gattolano, tutti ce l'hanno sulla cappotta, che loro fanno le dimostrazioni, però questi, vedi che ogni tennone che le costruiscono anche loro, le basette a tre cose, a tre ventose, a tre calamite, capito? Ma poi quando vai a togliere ti graffiano la cappotta, che sono troppo furti quelli lì, devi tirarle e ti graffiano la cappotta. Ma se vai in autostrada a velocità parte l'antenna, mio, la velocità, capito? E allora per quello che vanno a 3, e 3 fa pure più massa, credo io, non lo so, No, io c'ho la base, quella grande però, capito? Quella pesante. L'ho comprata da Fusaro, adesso dovevo mettere una turbo perché stavo cercando la frusta nera ma non l'ho trovata da nessuna parte e ci voglio mettere un'antenna mini turbo, che così poi se cambia idea mi compro anche lo stiro e metto la 2001. No, lo stiro cambia la carica direttamente, non lo stiro, tutto intero deve cambiare. Puoi lasciare la basetta ma devi cambiare la cosa perché non va bene. Lo stiro con la carica lo vendono a parte, capito? La carica con lo stiro la vendono a parte. È positivo. Va bene che è bene, dai, che c'è Riccardino e anche Natalino. Facciamo riprendere a Natalino, dai. Sì, me ne sto alzando adesso, Avanti Riccardino. Va. Tuffato c'è Riccardino. Avanti Gianni. C'è anche Chiodo Arrugginito da Mulos. Chiodo Arrugginito, facci sognare, Gabbio. Ciao, Chiodo Arrugginito, buon correnti e buona serata. Avanti Gigi Vulcano, poi fai girare per Riccardino se c'è. Va bene, fai buon proseguo della giornata, buon tutto. Ciao Claudio. Pare Claudio il nome, giusto? O sto sbagliando? Sì, Claudio. Ciao, avanti se c'è Riccardino. Riccardino deve, sicuramente l'hanno chiamato, ogni tanto lo chiamano. Mattarino! Oh, yeah. Aspetta che controllo qua, a vedere se è tutto in corso. Aspetta e provo a mettere l'eco, a vedere se funziona tutto. Sono un po' da un tanto che non faccio andare questa cosa. Allora, questo è il Mickey G, aspetta un attimo. Ola, aspetta l'eco. Stamattina, Natalia, se mi vedevi ti facevi quattro risate. E perché? Cosa ti è successo? Mi sono scappati i tre canarini, mi sono dimenticato la porticina della gabbia aperta e sono andati sul filo da stendere, Tyson li ha visti, cazzo è saltato e sono tutti scappati nel cortile. E via a cercare i canarini, a Missigille, gli alberi, i due li ho beccati, uno no, quello che cantava a me che è nato in gabbia, quello che è nato a me, non sono riuscito a trovarlo. Ho trovato quello giallo e quell'arancione, però che erano i più belli. Rimaniamo. Palazzi, che turni, mi. Magari sta in cortile, perché gli altri li ho presi tutti in cortile, erano negli alberi del cortile, erano un po' spaesati. Infatti. Beh, se ti dico dove sono andati, non ci credi, non ci credi. Li ho seguiti da un albero all'altro, poi alla fine sono andati a finire uno sul cofano della macchina e l'altro sul tettuccio della macchina. Ah, un po'. Pare che i raguli sciano. E li ho messo la rete del coppo sopra e li ho beccati. Invece quello là proprio non l'ho più visto. Non sono riuscito manco a vederlo. E poi magari che ti salga dal poggiolo adesso. E adesso scendo da Fabrizio e me ne prendo un'altra coppia. Guarda quel cucciolo Dussi come sta diventando grande. Cosa gira? Guarda quella foto che ti ha mandato di Dussi, il Rottweiler, come sta diventando bello grande. Ma a proposito, io sai che mi ha detto Pinuccetto che stavano facendo condoglianze a Massimiliano Bulldozer, ma cosa è successo? Ha detto, ma chiamato cosa? Un Pinuccetto dicendo. Non so nulla, non ho saputo nulla. Ha detto Pinuccetto, io non ho visto niente, stavo guardando, non ho visto niente. Boh, non devo chiedere comunque. Chiama Claudio a vedere se sa qualcosa, io non ho sentito nulla. Ho Pinuccetto me l'ha detto, io neanche lo sapevo. Hai visto il cucciolo? È bello, ma non c'è il pastore tedesco anche? Sì, c'è il pastore tedesco, c'è il blu, come si chiama? Blue Star, come si chiama l'altro? Blue Star è la discoteca, è una cosa così, Blue Master. Non lo conosco. Mandami la fotografia perché non lo conosco. Ne hai tre? Sì, si assomiglia un po' al tuo quello là. Non è come per il colore, è come il tuo. Il colore, però il pelo. Vabbè, io il mio già è bello anche il mio. Tutti quanti mi fermano per strada per dire, ah, è bello, però il mio è un po'. Bisogna stare attenti, perché se non li va la persona li bricchernando. Guarda se c'è qualche foto, ma penso di no. No, negativo, non ne ho foto, che devo fare, dai. Va bene, che bene, cambio. Beh ragazzi, io faccio un attimino l'intervallo, mi mangio un gelato, ce l'avevo la bocca asciutta che ho parlato troppo. Un gelato, qualcosa, adesso vado al frigo e guardo cosa trovo. Vai, guarda il mio allevamento. Ah, hai mandato le cose. Quello che sta cantando, quello giallo e verde, quello lì è quello che non ho trovato. Un peccato che cantava come un usignolo. Ma vuoi vedere, Natalia, che quell'allevamento dove c'era tutto a comprare i canarini è il fratello di Sandro Tigre, perché abita lì. Natalino! Sono qui. Ho detto, vuoi vedere che il fratello di Sandro Tigre dove ha comprato i canarini a San Giovanni. Perché me l'ha detto Gigi che c'ha un allevamento un bel grande. Ho ritrovato il patentino per il VHF marino, anche in banda laterale posso trasmettere. 200 40 watt. Questa mancanza di apporto è valido solo per navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate, con stazioni di porto fino a 240 watt PEP in banda laterale unica. Mi coglioni. Sì, ma devi avere la barca, da casa non l'ho più usare. Ma posso ascoltare? Leggi bene, leggi bene. E cosa devo leggere bene? È una ragazza che è cresciuta. Su quello che ha detto Gianni, giusto? Non puoi detenere niente, quello è valido solo se hai un attante, leggi bene. Quello è valido solo per i nattanti. Per chi ha la barca, nel senso che tu in barca puoi usare la radio. A casa non le puoi tenere VHF marino. Da sempre. E se uno lo vuole togliere dalla barca per non lasciarlo in barca, non lo può togliere secondo te? Certo, Natali, come facciamo dalla macchina? Lo togli e lo porti a casa, ma non lo puoi attaccare a casa. Non puoi, hai mai visto antenne marine sopra i tetti tu? Non le puoi tenere a casa di Radio Marina. La Radio Marina è nata per i nattanti. Poi chi ha il nattante la smonta e la porta a casa, ma non è che da casa parla e chiama la capitaneria, no? O parla in VHF marino, no. Solo la compagnia portuale è autorizzata con i portatili, per esempio, quando è reperibile Eugenio, perché lo so, c'ha il VHF marino a casa e parla con la sua compagnia però, o con la compagnia del porto, capito? Ma quello è un altro discorso. È così, purtroppo è così. Avevamo fatto tutti quello, pensavamo che dovevamo fare chissà che cosa, ma non è così, solo per i nattanti. E io ce l'ho la barca, non c'è problema. Io ce l'ho la barca, eppure parcheggiata nel piazzale. Io ce l'ho in campagna la barca, è in campagna la barca. Allora, va bene così, ma non ha nessun significato, anche se ce l'hai la devi tenere a bagno e quella radio si usa a bordo, va, capito? Vabbè, comunque, ognuno fa quello che vuole, stidi. Buon proseguo, Buon proseguo. Sì, anche il coso della macchina ho trovato. Ah, ecco qua. Anda bene Meda. E cosa ci ha fatto? Frase furruggente. Stavo cercando questo patentino, stavo cercando, no? Perché non lo trovavo più. E c'è anche il codice della chiave della macchina mia. Capito? Ah, ecco. Ho capito. Ohia. Io dovevo uscire a comprarmi un coso di vernice, ma non è che non già che sei gana, Ma volevi uscire che hanno chiuso tutti alle due, ma mi esagerisce di te. No, Bricco rimane aperto sino alle 7. Ah, Bricco, e allora, Bricco. Sono passato stamattina, adesso sono andato a Ripunti, c'era la coda della gente fino a fuori, tutti malati, sono qui con Bricco. Asco, Ocla, chiamami un attimino al telefono. C'è qualcuno sul 10? C'è qualcuno sul 10? Hola. C'è qualcuno sul 10? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Attenzione 10. Attenzione, canale 10, grandi modulatori, entrate, cambio. Siamo qua. Uè, Tattalino. Che ore sono? Le 6:30. Adesso devo scendere a vedere se trovo l'altro uccello, cazzo. Mi dispiace un bel quello che cantava un bel Tattalino. Farà, vi dico, bisogna allora. Vabbè. intanto io devo fare una telefonata, dove cavo, ah, eccolo qui il telefono. Mi affaccio a vedere se lo vedo, se non vedo, se non scendo nemmeno. Prova a vedere, adesso devo fare una telefonata, un attimo. Ehi, perché poi mi vedono con questo cazzo di coppo, mi darebbe a mancare. Infatti. Attenzione canale 10. Attenzione canale 10, 27.075. Chi sei, Fabio? E allora? E E tu perché lo stai facendo il checco? Hai visto come lo faccio bene, bene? Ma non mi piace come ripete, però. Non è come questo, questo qua è un eco professionale. Ah, esistono anche l'eco professionale, wow! Beh, certamente che sì. Ci sono praticamente l'eco, quelli che sono infiniti, ci sono quelli che sono corti, bisogna anche conoscere l'eco, capito? Ci sono quelli infiniti, quelli che ripetono, che io dico ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao, sì, quando voli la portante stanno sempre andando. Ciao ciao ciao ciao ciao. Aspetta, aspetta. Ehi, come va questo apparato, Fabio? Come ti sta arrivando? Sta arrivando malissimo. Ma male, brutto. Santiago meno 2, radio meno 3. Sono geloso. Ah, che bello. Così mi piaci. Anche io, Fabio, sto arrivando basso. Non parlare che non ti sento intanto, non arrivi qui. Ok, va bene, un attimo di bianco per me. Fabio va, interventa Fabio va. Eccolo là, bella luce. Ma mi intendi o no? Ma un pochino, giusto, guarda, sì, in mezzo a QRM. Che meglio? In mezzo a QRM ce l'ho 9,60 io. Ah! Basso basso. Cavolo, questo mi è arrivato basso. Chi è? Sono Alessio di Tintic. Cava cava. Un'antenna di macchina. Sono di ferro, cioè, è di ferro questo. Ma hai ordinato l'antenna, Fabio? È arrivata l'antenna, è arrivato il cavo e adesso devo salire a sistemare la cosa, vedere cosa si può fare di bello. Quale hai preso l'antenna? Alla fine ho preso la più leggera che c'era, 2 kg di antenna, la Venom 5 ottavi. No, non la conosco, non la conosco. Come rimane? Quanti radiali c'ha? Ha sempre una mezza Grand Plane incastrata con una boomerang senza radiale lungo. C'ha 3 radialini, ma non sono dritti, sono piegati, sono storti come il padrone. Chissà cosa cazzo ne esce. No, questo è curioso. Lì c'è un incrocio, Non va via di da sì, per fare una boomerang e ne hanno fatto lui. Da lui ne hanno fatto una. Roba. Aiuto, fate solo che sono di materiale leggero al tuo e come per il vento di rampa. Sì. Chiedilo a Antonello di Ussio. Ma l'antenna è preparata, Antonello. Ma non c'aveva quella, c'aveva quella della Midland, mi pare. È una similare. No, che no. Nella Sigma, nella Lem, nella Sirio. Avanti, Fabio, che marca è Sigma quella lì, no? No, no, non è Sigma. Che marca è? Già me l'hai detto. Niente, aspetta che vado l'altro, un attimino te lo dico. Lem, Sirio. No, non è Sirio, non è Lem. Non mi ricordo di che marca è, un'altra marchettina, ma è fatta in Italia comunque. Allora c'è una fabbrica che le fanno loro le antenne, sono similari alle LEM, alla Turbo 2001. Antonio, hai viste quelle antenne? Le antenne. Come non c'è più la LEM, è quella che fa la Turbo 2001? Non è vero, perché Fusaro ordina sempre le LEM. Io sto dicendo GGD antenne. Penso che sia Venom la marca. No, la marca mi sembra Midland Venom. Sì, Sì, ma lì non mi scrivo da nessuna parte, ricordi? No, da nessuna parte. Proprio antenna Venom, banda CB, 2630, 5 ottavi, alto guadagno, 2,5 kg. No, perché io dico il catalogo Midland di quest'anno, cioè sul catalogo Midland da Venom, l'antenna Venom 5 ottavi. K deve essere quella, se mi guarda il catalogo Midland, la vedete se la trovo. E allora è quella come quella che c'ha Marco Condor, dai. Ah sì, ce l'ha anche lui, va bene allora. Più o meno deve essere quella, perché anche Marco Condor c'ha quella della Midland, l'aveva pagata sulle 90 euro più o meno, tu quanto l'hai pagata? Poco di meno, mi sembra una sessantina di euro, fai vedere. No, 55 euro, sì, una cosa del genere. Sì, conta che lui l'ha comprata alla GBC, la GBC c'ha sempre i prezzi altissimi, pare una farmacia. Sì, infatti, no, l'ho trovata così, ho fatto un po' di raffronti. È quella più leggera che c'è per 5 ottavi per la CB, non ce n'è più leggera. Quella che c'è. No, penso che quella di Natalino sia più pesante. Vabbè, 2,5 kg è più o meno come la mia, mi di peso. La mia lo stesso pesa così, o Fabio? Danni, ma tu perché che antenna hai? Ah, perché non lo sai che antenna ho? Ma cos'hai, l'autocostruita, no? C'ho la Game Master originale io. Ah, è quella da pescatori? È da pescatori, pescatori. Infatti pesca tutte le stazioni. Ah, bene, bene. Deve essere, ne hai fatto soldi con la pesca. No, ricordi, ci dice pescato, ma non il pescatore, ricordatelo. Vai, grazie, la mia la più forte antenna di tutti, la Mantova a 5. Però beh, io ho la Sirio Blizzard. Ma la Mantova con la Mantova, Riccardì, mi sa che manco un atto il tuo, non l'ho piazzata. Mi sa che ce l'ho boh, 15 anni questa Mantova. Ma pulita l'hai poi, Olu? No, niente, ancora non ho fatto niente. Una volta l'hai su 45. Non ho fatto niente. Cappa. Devi cambiare anche il palo, mi pare, che era tutto rugginoso. Devo cambiare anche le staffe, devo comprare prima questi piattelli, dai, diciamo, così in acciaio, e poi costruire il tutto, ma faceva Roberto, me lo saldava lui. E li attacco così con quattro tasselli chimici. Adesso vediamo, già. Oh, detto che si continua a uscire la 27, ma con il voto. Ma perché Luca? Ma perché non sta andando la 27, scusa. Insomma, non la sai. Ma questione di polemiche, manco tre giorni da stanza di cazzo e mi incasinate in polemiche, già ho capito allora. No, niente polemiche, che tipo questa portante ogni tanto che è fastidiosa, cioè aspetta a noi a rompere le balle. La portante senti tu adesso? No, non me ora no, ma sono sicuro che è una persona che dico io, ma sono sicuro al 1000 per 1000. Ma chi se ne frega Luca, ma sto scherzando, gira manopola, poi abbiamo il numero di telefono, vai quel canale là, voi prima di beccarci. Ho capito, ma non va bene così, perché poi un domani viene scoperto ci rimane male e si becca anche una bella denuncia. Ma peggio per lui, io mica mi rovino la vita per colpa sua, no? Lui continua a fare le cazzate, tanto poi alla fine non si stanca o viene beccato, uno dei due non si esce. Luca! Facciamo come si faceva ai tempi quando mio padre era in CB, se lo rintracciamo con la macchina, lo salviamo, quando lo troviamo lo pestiamo, ma forte anche. Via, per carità, non sono più fisso fritti quei tempi, Riccardo. Si chiamavano spedizioni punitive. Ma sono dei fascialli di tutti da Reddu. Ma non è che sono questi grattelli russi? Dimmi pure a dollaro che entra. Ma No, roba nessuno, però c'è la macchina, non c'è un'anima. Ma così funziona la CB, ma... Sono tutti infognati il canale. Beh, per forza, no. Se no c'è nessuno con chi parli, col muro. No, ma io sto sentendo uno che sta grattando, ma cosa sei grattendo, Iso? Lo bisogno che va in capo. Oi, ciao Giulio. Ciao già. Ma tu lo senti questo grattare, Gianni? Già lo sento, sì. Ma l'uguro pieno di veloci, Giulio, va a staccare in l'uguro. Qua va la rogna. Ciao Giulio, comunque, ben ascoltato. Ciao Luca. La curva va la mettere la rogna, vedi, bella incrostata. Però sa parlare qualche paio di centimetri e se dove attende la rogna. Come devo fare per andare sull'11 alfa con questo? Ti devi spostare col fine corsa con quello, non ce l'ha l'11 alfa. Col fine corsa. Ho capito. Basta andarcene sull'11 alfa e non ci rompe più le scatole. Tu ti sposti tutto quanto con un carrier e vedrai che vai sull'11 alfa perché si sposta di 10 kHz o una tazza. Riccardino, ce l'hai l'11 alfa? Io ho sintonia continua, io ho tutto. Scusa se mi sono permesso. Ma io andiamo tutti sull'11 alfa, dai. Dai, io ti lo provo. Belli, beh, ci sono. Ci sono anche io. Sono tornato, ci sono, mi sentite? Chi c'è qua? Che è rimasto? Sono io, Robè, mi ascolti? Ehi, alla grande. Poi c'era anche qualcun altro. Sì, sono sui 10 alfa, 11 alfa. Aspetta, non parlare. Avanti, chi c'è? C'è forse qualcun altro? Sei tu uno forte. Buon appetito. Ah, è fatto per segnale, questo è così forte, ho detto sicuramente è Marco. Ciao, ben sentito Marco, sono appena entrato, ho sentito a Riccardino e poi ho visto questo portantista, ho detto questo è Marco che sta dando fastidio a tutti. Scusate, sto masticando, mi pare sia anche Fabio. Qua portante esigua, arriva a 7, sentiamo 7, no? È che loro alla Terol ce la sentono forte, capito? Vai Fabio, se sei tu. Scappa, sono curioso, a parte i saluti a tutti, ma cosa stai mangiando Marco? Oh, cracker, stavo mangiando una cosa a base di uova, una specie di omelette, adesso sto mangiando qualche cracker. Cavolo, qui roba seria, siamo già a colpi di cracker. Roberto, ben sentito, finalmente. Ehi, ciao Fabio, ben sentito anche a te. La portante era a te, la riferita a te Marco, non è se risente. Come Robè? Ho detto importantista, perché quando stava parlando Riccardino, ho visto questo segnale forte, ho detto questo portantista sicuramente è Marco. No, è che volevo riprendere e non beccavo bene il mic. Dice stasera Riccardino, dopo pranzo, verso le 3:30, 4, che parlavo con lui e c'era uno che mi metteva la portata, ho detto complimenti, ho detto infatti ho detto problemi, a me fastidio non me ne dà, vuol dire che dà fastidio a qualche altro quando mi deve ascoltare, a me sinceramente io non lo sentivo, per cui a me personalmente fastidio non me ne dà. L'ho anche salutato quando ho finito e sono andato via, dico saluto anche l'amico che mette la portante, ben sentito, anzi se non l'ho sentito, per chi l'ha sentito. Ti spiego Marco, perché a Roberto ha detto provo due microfoni, ascoltate la modulazione, e qua ci si mette mettendo il portante e stava distorcendo la voce, non stavo capendo. Ma ti rendi conto, a me cacchio, con tutta la gente che c'è, proprio a me cacchio, mi ne affutassai. Ma forte? E dice che mi passava, figurati, io gli arrivo 9:20, quanto arrivo di lì Erika? Qua fa un altro passaggio che mi stavano chiamando da 10 kHz in su, dal piano di sopra. Cacchio, addirittura così ricercato, che segnale mi dai? A 8 ci arrivo Erika. Guarda che siamo sull'11 alfa, Robè. Passa lì, 95. Sì, aspetta, ciao, sei giù, ciao, stavi dicendo una cosa Riccardo, avanti. Anche Riccardo, eravamo insieme, ma siccome lui non si è spostato, evidentemente la tua cosa non sa dov'è. 95, Riccardi, 27095. Lo so che è 27095, mi sono fermato qui perché c'era Roberto che stava chiamando. Ma c'è anche Fabio, non so se Fabio ce l'hai il canale alto. E si stava grattando in più che ti aveva in testa, o se ce l'hai in testa, Roberto. Non l'ho mai usato, so che non l'ho mai tarato questo mattapalizio. E non va mai di frequenza, si sposta così tanto, capisco. Potrebbe spostarsi solo di 8 kg e 7, perciò magari sono fuori, non lo so. Facciamo provare. Ah, rimaniamo qua, pazienza, dai. A me l'importante è se la metto non me ne ha fatti nulla. Ci stancherà, cosa vuoi che ti dica? Non mi interessa. Ciao Giulio, ben sentito, ti rilascio il mic. Riccardo, cosa mi ha detto? Quanto arrivavo io? Riccardo. Sì, un attimo, che c'è questo Giulio dei miei stivali, scusate dicendo così, no, dai, sto scherzando. 9:30 arrivi. 9:30 di segnale, radio sempre 5. Quindi la portata era superiore a 9:30, era vicino a te allora? Sì, era 9:25. Quindi ce l'avevo sotto io. Ma a te quanto arriva la portante, Robè? Quella solita, a me 7, sei quella. No, io non ne ho sentito per niente di portante, assolutamente. Probabilmente la metteva solo quando parlavo io, non ne ho notato portanti. Oh, Robè, di più di 10 kHz, che non si capisce niente, non si capisce più nulla, dai, 10 kHz in più mettiamo. 20 kHz. Ah, scusa. Sì, ma c'è anche Fabio, no? Rimaniamo qua, che cavolo, cioè, ha messo il nuovo portante perché, Ricca? No, perché non si capisce niente, che sento quelli in 10 kHz e anche noi sentiamo, infatti non si capisce niente, e mi adesso mi sta un po' richiamando, magari vedi. E chiudi un po' l'RF again, cosa vuoi che ti dica? Io, a me non mi dà nessun disturbo nessuno, tutto pulito io, a voi vi dà disturbo qualcuno di sbatti? No. Non capisco a lui come fa a darle disturbo, E questo è un altro segnale sconosciuto. Avanti, chi è? Forse non stai uscendo. Chi sei, Capri? Questo è un segnale 9 più 10 che non disturba nessuno, perché voi siete operati alla grande. No, ma la premuta come se dicesse, cioè brevemente, come per dire, sto uscendo, magari qualcuno che non esce. E piuttosto, Fabio, ti hanno chiamato prima sull'11 alfa, ma ce l'hai? Ma non lo so, non ce l'ho mai andato con questa apparecchio qua. Mi ha messo vecchio, da solo, bellissimo. Ti ripeto, non ho mai... Vino arriva fino a 10, non lo so. Che apparato è questo, Fabio? Scusa se te l'ho chiesto. Questo è il mio mitico Connex 3006, prima edizione, la prima, il primo che è uscito. Ah, ok. Ma ho capito Saturneco, chissà perché, mi è venuta a mettere Saturneco. No, oh, però l'ho avuta, ma poverina, prima tanti di quei corsi con la stazione. Rispetto alla Saturneco per quanto riguarda la ricezione, capito? E proprio l'altro giorno avevamo una discussione riguardo al Saturneco, ho detto grande apparato in trasmissione ma la ricezione è una grande cagata, perché prende tanti di quei colpi, deve attenuare, non ha filtri in coso, e la GC controllo di guadagno non ce l'ha, per cui come c'è uno vicino lo prendi smatter da tutte le parti, perché avevamo fatto il confronto col Multicom che c'ho io della Intec, l'ho detto, li fa 10-0 in ricezione, è meglio del 140, li può attaccare un segnale sotto di 150 watt sotto a fianco, non rimane di nulla. Calma, questo sì, l'avevo anche ritoccato per essere un po' meno sensibile. Basta questi destini, non ne facciamo più. Ecco, apposta. Robè. 30 metri c'avevo ciò, una mandorla gigantesca e 30 metri. Roberto. Tutti, non so canale, oppure io smettevo di sentire. Aspetta un po'. La bonifichetta, sì, magari alcuni lontani mi sento di meno, quello che vuoi, però riuscivo a parlare almeno, capite Roberto? Se no per me è impossibile. Sì, io già lo so, anche lui, sì, il Pace c'ha lo stesso problema, ottimo in trasmissione, ma in ricezione, quando c'è Claudio che parla lui devo attenuare, se no si oscura tutto, si abbassa, diventa muto l'apparecchio, mentre col Multicom ti posso garantire quei problemi, c'è comunque qualcuno che si sta divertendo, l'ho passato tutti, però qualcuno sta cercando di divertirsi. Lascialo perdere. Chissà cosa andrà, ma sono segnali differenti, uno è un 9 più 10, l'altro è un po' più forte, però l'ho passato tutti alla grande. Anche io che sono il più piccolino, buonasera. Ciao Gianni, c'è anche Riccardino, Marco Condor, cosa fa? Fabio. Rilanciamo di nuovo a Riccardino che si è allontanato un attimino. Vediamo Riccardo. Riprovo, break, prova. Ah, eccoti qua, avanti. Oh, forse adesso finalmente riesco a farmi sentire. Ciao Roberto, buonasera, Salvatore. Salutati tutti gli altri amici. Salvatore, ciao Salvatore. Allora eri tu che non stavi uscendo, c'era un segnale 9 più 10, ho detto qualcuno che non stava uscendo, poi la portata probabilmente era un po' più forte perché schiacciava solo quando parlava qualcuno, dai. Ok, ben sentito Salvatore in compagnia mia, di Fabio, di Gianni Doppio Room, credo Luca che l'ho sentito di sfuggita, Natalino e Riccardino. Ho rilanciato a Riccardo però forse non mi ha sentito, avanti Riccardo. Nulla, riprendi tu Natalino per salutare a Salvatore. Chi mi è vicino di casa? Ciao Natali. Vabbè, Salvador. Uè Gianni, Doppio Room, buonasera, quanto tempo? Ma cosa Gianni? Gianni, io ti chiamo a te. Gianni so secondo te. Il mio vicino che apriamo le finestre e ci parliamo. Sono tornato. Crocco, vabbè, Salvador, ieri un po', eh. Un bel po' di tempo non entravi qua, come va? Uè, ciao. Guarda, incasinatissimo, ho tutto l'HF buttato giù in attesa di fare dei lavori e niente. Stasera stavo armeggiando con un software per la gestione da remoto delle radio e ho incasinato parecchia roba e adesso stavo cercando di ritornare alle origini, alla base. Ho detto vabbè, iniziamo a vedere almeno se dalla 27 riesco a sentire qualcuno e così è. A te di nuovo. Ogni tanto ti sento là in V e in U, ogni tanto, non sempre, è sempre spento, tanto molte volte lo tengo acceso, non c'è nessuno, poi quando vado a trasmettere col baracchino mi fa rientro, allora preferisco tenerlo spento. Ma io? Ti do fastidio io? No, io, allora, quando io ce l'ho acceso, no? Che lo tengo nascosto, quando parla al baracchino mi fa rientro. Ah, ho capito. No, io ieri ho passato la giornata a sistemarmi la X700 lì sul Torrino, avevo anche delle stazionarie e delle altre cose, e finalmente ho fatto un po' di pulizia. E oggi stavo vedendo e meno male, funziona bene, sono contento. Ho preso da poco il 9007 ed è veramente una cosa molto piacevole, anche perché con i band scope con gli spectrum scope riesci a capire che attività c'è in frequenza ed è un grande aiuto. Dai, di nuovo a te, non voglio monopolizzare, ci mancherebbe altro, e risaluto tutti quanti, dai, riprendi ancora te. C'è un rumorino con quel sotto sabato, avanti Natali. C'è Riccardino rientrato, facciamo riprendere a lui, avanti Riccardo. Ehi, grazie Robè per il mic, mi sono allontanato un attimo, scusate, mi hanno chiamato. Non c'è problema Riccardino, non c'è problema. Ciao Salvatore, io sono Gianni. Ah, scusa se non ti ho salutato Salvatore, sono un po' sbadato, comunque ben ascoltato. Ci mancherebbe altro, ma grazie, ma figurati. Ciao Doppio Room, tu sei l'unico che c'ha l'eco, per cui ti dovevo riconoscere al volo solo per questo, quindi perdono. K è la mia prerogativa, l'eco. Malgrado c'è gente che non le piaccia, ma a me non mi interessa. Questo è il mio modo di uscire. Avanti Roberto. Io ho l'eco scandaglio invece. Ok, sono questioni di gusti, dai. Ok, chi è rimasto? Aspetta che c'è anche El Condor Paso. Avanti Max. Me, va, come insani tutti con l'eco, me. Boh, cambio canale, me ne vado, dai, ciao a tutti, buonasera. Ciao Anto, ben sentito. Ho rilasciato a Marco, forse gli è andato di traverso il cracker, se ci sei ancora Marco. Marco, lasciami un pezzo. C'è anche Fabio, dai, quello sempre ruzzicando sta, mamma mia, vai Fabio. Gaffa, sento la metà di quello che senti tu, figura, Salvatore non lo sento, Natalino, sento solo beep, chi è appena entrato solo l'eco. Ah, io grande che piatti questa antenna Fabio, che ci fai schicchiare un po' di gente. Un paio di giorni la mettiamo, la erigiamo sul petto. Eia, ok, il Condor deve essere staruzzicando, non ce la fa riprendere. Marco ci sei, se no riprendi tu Luca. Eia, eia, vabbè, dai. E tanto Salvato, che ci racconti? Vabbè, c'è un bel po' che non ti sento, con il 27, sicuramente è impegnato male in altre frequenze. E vabbè. Ma guarda, a dirti la verità, Olu, non sto facendo un granché, perché un anno e mezzo oramai che ho... Sì, questo rumore è proprio fastidioso. Ho abbassato tutto quanto perché dovevamo fare i lavori sull'attrito solare e quindi le HF sono sostanzialmente giù. Per pur di sentire qualcosa ho fatto un loop, ho montato un loop nell'astrico e riesco ad arrivare fino ai 40 metri, però sento malissimo le frequenze più in alto, non riesco ad accordarlo. Quindi anche per trasmettere, adesso sentite questo rumoraccio perché sto trasmettendo con un dipolo Q-inverted che mi sono messo nel terrazzino giusto per uscire, ma è una gran porcheria, però almeno riesco a dire due fesserie e parlare con qualcuno quando posso. L'unica antenna che funziona correttamente è la X700 delle VLU e basta, però anche quella l'ho dovuta spostare in attesa di... Insomma, sono un pochettino così e poi insomma grandi problemi anche nel mondo del lavoro come tutti quanti, con la questione del Covid ho dovuto dare un supporto ai colleghi e insomma per altre situazioni di tipo informatico e non che mi ha assorbito tanto tempo e quindi non sto entrando, poca roba. A te di nuovo Luca, fai girare pure, prego. Ho capito, Maggio capito, vabbè dai, chi è che volete avanti? A me sta dicendo. Ah, tu eri già. Ah, stavo provando questo apparecchio, dai. Già, ti togli l'ecco. Sei chi è? Avagava! Chi è che ha breccato? Va. Brecco, buonasera. Tino, tu sei? Cazzo, positivo, dai. Certo, sono un bel forte, sto facendo un bel forte. Ciao Gianni, grande era, la devo tagliare. Vabbè, un pezzettino già ce la fai, già è veloce, anche la cola molla la puoi fare. Ne ho beccato due, Vittino, col coppo. Bella, hai visto? L'avevo visto io. Giallo e l'arancione, mi manca solo quello pezzato che cantava un bel. Quello lì mi manca, mi dispiace un bel perché cantava. Ciao, anche a Tino. Ciao, so che mi è successo oggi. Vabbè, dai, sarà giusto per un controllo che sto provando un amplificatore, dai. Poi si fa lo scarto. Vai al canale 20. Già su, Gigi. Ma che è successo? Allora, mi sono seduto in macchina, no? Faccio una retromarcia, faccio un paio di metri, proprio un paio di metri veramente. E Marina mi fa, lui c'è una cornacchia in terra, ci vedeva che era da nido, tagli la scena a me, mi sono fermato, ho visto che rimaneva ferma, poi ho aperto lo sportello e non me ne calano i genitori dalla cornacchia. Mi sono dovuto salire di nuovo in macchina. Ehi, anche a me mi hanno attaccato, una signora mi ha detto a me, me la togli Gianni, me la togli questa cornacchietta sotto la macchina, che ho paura di schiacciarla, sono andato a toglierla e mi stavano attaccando, sento dall'alto, ho fatto il tempo per trovare il portoncino, cazzo, e sono scesa in picchiata. E così l'ho fatta a me la stessa cosa, uguale, né più né meno, guarda, sono sicuro che lo faccio vedere la Marina, allucinante, lo zoom è giusto già, allucinante qua, infatti la volevo prendere e buttarla lì dentro il giardino, là, lì dove abita la mia 25, e non mi ha dato la possibilità di farlo, proprio me ne sono piombate addosso, quasi, mi sono dovuto sedere in macchina, infatti me ne sono andato fuori, e la cornacchia è rimasta lì sul marciapiede, perché prima era sulla strada. Perché le calano per darle da mangiare, capito? Poi se le riportano nel nido. Anche qua non faceva andare a prendere la macchina perché ti attaccavano, perché cosa era successo? Con un colpo di vento gli ha buttato il nido da un pino, ce l'avevano in punta un pino, perché io da casa mia lo vedevo, il nido che gli davano da mangiare, e il vento l'ha buttato giù, una colla che è morta e l'altra stava gironzolando dove c'erano i posti macchina, no? E fatto sta cazzo che praticamente... non facevano avvicinare a nessuno, si tornava a prendere la macchina e ti attaccava. Dicevano che mi sono dovuto sedere in macchina, infatti io volevo riscendere dalla macchina, solo che tu non scendo neanche, la volevo prendere e metterla nel giardino così ti più assicuro, ma c'è niente, non mi sono fidato. No, ma stai scherzando, ti attacca, ma ti si tirano agli occhi, mio occhio. E con un ciaffo, grazie della capotella, cosa si tira agli occhi? Allora uno vicino a casa, sai cosa ha fatto? C'era una colla che è in terra, quello lì ha sbagliato lui però, C'era una colla che è in terra, lui stava buttando la monda e se c'era il cane, ha preso da usato un cane, un pastore tedesco. Se ne era unzato, il cane va a morsicare la cornacchia si è alzata in volo, gli si è calata sulla testa, gli ha beccato tutto il naso, gliel'ha fatto in sangue. Al cane? E allora, raga, ma in pressa lì, in fretta in fretta. Sono maledette, maledette. Sono qui. Mari, mi guarda, stavo raccontando a Gianni del fatto della cornacchia, diglielo tu. Sì, abbiamo visto una cornacchia da nido e la volevamo mettere in mezzo all'erba perché era nel marciapiede e Luca se ne è sceso dalla macchina, la voleva prendere per metterla nell'erba, gli si stavano avventando. E anche con me l'hanno fatto, una signora mi ha chiesto di togliere sotto la macchina perché doveva uscire al posto macchina e mi ha detto non è Gianni che mi toglie questa cornacchia, che ho paura di schiacciarla. E praticamente la stavo togliendo, ho fatto in tempo a rientrarmi dentro la porticina che porta al posto macchina perché mi si sono tirate contro, ma proprio in picchiata sono scesi in due. Ma io mi ricordo quando Stella, il mio cane, era cucciolina, tipo 3 mesi, era proprio piccola, che la portavo giù. Ci dovevo stare un bel attenta perché le cornacchie se la avventavano. Lo so, anche con Tyson, l'altro giorno c'era una cornacchia che ha preso un tiriguro, quel tipo, non so se lo conosci, sembra tra la lucertola e la biscia, è scivolo, è di scivoloso, la pelle tipo la biscia. L'ha preso e Tyson l'ha vista, cazzo, l'ha abbaiata e la cornacchia l'ha mollata in terra e Tyson si è messo a giocare, lo dava colpi di zampa e lo faceva camminare, però non gli faceva niente. E la cornacchia era sul palo, io che si rendevo prima che si attacca che sa cosa, come l'ho mollato, che l'ho tirato a teso per mollare quel tiriguro, l'ha dato, se l'ha preso e è andata sopra un furgone e se lo stava mangiando. Bisogna starci attenti. Vabbè, da. Passo e chiudo, buona serata a tutti. Marina, buona serata anche a te, dai. Avanti, Antonio. Chiudendo sta Mari, si è andato, va bene, te la scrivo su WhatsApp. Raga, io dai, fate entrare di nuovo le donne, che ci divertiamo. Entrare a Sara al baracchino, tu. Oh, io Giussi. Così ripopoliamo il popolo femminile. Alberto, avanti. Ehi, c'è il parcheggio Riccardino, facciamo riprendere a lui e poi a Fabio, dai. E richiamiamo poi i due parlatori cornacchi e qua abbiamo un Condor vicino, cacchio. Condor, ci sei ancora? Sì, stiamo cercando di non è cosa che... Visto, due passaggi, chiude subito, non interessa. Cosa hai detto, Luca? No, a Gianni stavo dicendo che la baracchina a Marina non le piace. Non sono tutte le donne che interessa, e non sono tutti gli uomini lo stesso che interessano, c'hanno altri umbri, dai. Ok, vediamo Riccardino, un attimino facciamo riprendere e poi gireremo in ordine. Avanti Riccardo. Meno male, Robert, almeno tu ti ricordi. Io sono tuo padrino acquisito, mica. E l'altro è Fabrizio, come ha detto Claudio. Sì, è vero, Fabrizio anche lui è mio padrino. Chi è che ti ha rilanciato in frequenza? Chi ti dava sempre i corda, dai, dall'inizio? Non per dire, però, ti ho sempre anche gli altri. Però all'inizio Mari c'era qualcuno, Mari, che non ti dava più di tanta importanza, dai. Ok, avanti di nuovo Fabio. Kappa, saluto tutti, anche i nuovi entrati, i nuovi usciti, eccetera. Annuncio correttivo a causa carica. Ci sentiamo dopo, dai. Ehi, ciao Fabio, buona carica e buon tutto. Vai Gianni per Fabio. Ciao Fabio, dai, buona carica, magari ci sentiamo stanotte se entriamo, dai. Ok? C'è anche Salvatore, Salvatore riprendi tu. Eia, sì, ci sono, sto guardandomi un progetto di una di un'antenna per i due metri su questo sito, molto molto interessante. Tranquilli, sono qua, dai, vi sto ascoltando, mi tenete e ci teniamo compagnia. Vai Roberto. Eia, ok, vediamo se Natalino c'è ancora. Natalino avanti a te. Eia, io faccio QRT, dai, non ne ho voglia stasera. Ci sentiamo alle prossime. Natalino, ciao Antonio, dai, buon QRT. Ciao Antonio, ciao Natalino. Bisogna dargli un po' di qualche, non dico stimolante, ma qualche integratore di umore a Natalino, perché ultimamente è molto moscio. O sbaglio Natalino, dai. Avanti Marco per salutare a Natalino e a Antonio. Ciao Natalino. Ciao anche, come si chiama? Porca miseria. Buonanotte. Buonanotte anche a te. Ciao Marco, piano il telefono. Ciao Marco Gondor. Bombolo volevo dire, Antonio Bombolo, Fabio idem, buona carica e Natalino è sempre scontento, è come me. Ciao Natalino, ciao Antonio, alle prossime. La paranoia. Paranoia, la paranoia. Io ce la fai una serenata con la chitarra. Tucca la sassolare la chitarra. Inizia. Eia. No, a dire il vero manco io non voglio oggi. Poi questa giornata di festa metto una paranoia. Tu festa di cosa? Della Repubblica di cosa? Delle banane? Repubblica delle merendine, scusa. Bene, ciao a tutti, dai, chiudo anch'io e tanto devo fare altro. Ciao Riccardo, Gianni, non mi ricordo chi ci è rimasto, dai, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, buonanotte, ci sentiamo domani. Ciao Marco, ma Luca dove è andato? Sulla terra di Tuganti, no, Gibu? Sarà su WhatsApp, sarà al telefono, eccetera. Non lo voglio nemmeno io. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Gianni! Gianni! Gianni è sparito pure lui. Ha seguito a Luca. No, oh, io sono qua. Sto guardando dove Luca, perché vi sta splatterando tutti i canali. Se andate in qualche canale sta splatterando tutto. Sta splatterando? Ma che? Tutti i canali mi splattera. Abbiamo scoperto che non è su WhatsApp. Non è su WhatsApp, sta tranquillo. Infatti stavo per dire a Marco, da WhatsApp non mi può splatterare. Eia, chi c'è rimasto? No, vedo che c'è attività sul 20. Che sono? Vedo che c'è attività sul 20 come canale. Riccardi, cercalo a vedere che non riesco a trovarlo io a Luca, perché c'è il 48 e non riesco a trovarlo dov'è. Aspetta, sintonia continua è qui. Pardon, 23 era come canale. Sono rientrato io. Chi c'è rimasto qua? Io per N20 in ascolto, sto facendo roba, cercando di capire come leggere una tabella per un'antenna. Ma che cosa stai usando? Basta dire l'iniziale dell'apparecchio che stai usando adesso, senza dire tutto quanto. È un ICOM 7008. Eia, ci sente tipo motorino, non so. Sto andando con un dipolo. No, il segnale è già 9+10, però probabilmente tipo ti ha preso qualche scarichetta di qualcosa, sta iniziando forse la propagazione, non lo so. Ok, chi è arrivato? Riccardino, ci sei? Roberto, tornato. Cosa? Tornato. Aspetta, avete parlato in due, chi c'è sotto? Gianni o Luca? Chi è avanti? Io so. Ho detto, guarda con un watt e mezzo, come sta arrivando? Un watt e mezzo c'ho adesso. Da 9.15 arrivi a 9.20 con il picco di modulazione. Cavalava! Sì, a me 9.10, ma con un dipolo. Ma adesso ho abbassato a un watt e mezzo, dai solo. Ma che baracchino è questo? Questo qua è il coso. Il Midland, l'hanno 48. Ok, chi c'è rimasto qua? Fabio, Antonio, sono andati via, ne ha dato di ridere. Chi c'è? Marco, il vicino mio, c'è Condor, ci sei? No, è andato in carica. Ecco. Sì, vabbè, come ti arrivo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9.25 sei qua, spaccato. Allora, va bene. Avanti, o Salvatore. Tutti morti sono, tutti andati via. Ah, si sono spostati i canali secondo me, perché sento splatter però non riesco a trovarli. Non so, non capisco dove siano. No, non c'è Gianni, ho fatto sintonia continua, non l'ho sentito. Oh Gianni! Ma dove dica? Ma che macchina stai usando? Sono 48. Ma si è agganciato anche? Che... Questa roba di spuria che in mano su maracchino. Non lo duio. Cazzo, mi stai spaccando i canali, che canalini? Io questo qua non lo mando perché...